Io sono convinto che gli italiani oggi abbiano qualche timore, abbiano qualche paura. Di chi, di che cosa, non lo so, ma credo che abbiano timore, abbiano paura. Personalmente io ho paura. Acciderbolina! Acciderbolina! Benvenuti nel mondo di Tra allegri ragazzi morti! Io! Sei fotocopia della TV, sei fotocopia della TV, sei fotocopia della TV, sei fotocopia. Fotocopia.